Allora, è la puntata zero e io sono Stefania, sono qui insieme ai nostri amici di Radio Big World. Innanzitutto saluto tutti coloro che hanno il coraggio di ascoltarmi e mi piacerebbe iniziare a parlare di educazione. È una materia che mi ha sempre appassionato sin da quando ero un adolescente, ora sono una nonna. Da quando ho capito che praticamente l'educazione è quella che ti fa essere poi quello che sei in realtà. Un mio professore mi diceva sempre che noi siamo il prodotto del nostro sicuramente DNA, siamo il prodotto del caso, ma soprattutto siamo il prodotto della cultura, di dove siamo, con chi abbiamo a che fare, il percorso che facciamo. Mi piacerebbe farlo insieme a voi, anche per capire meglio quanto sia complicato però necessario l'attenzione verso questo tema che è fondamentale. Secondo me è il tema che praticamente regge il mondo, è il tema che ci fa scegliere tra pace e guerra, è il tema che ci fa scegliere tra l'essere disposto verso gli altri o il non essere disposto verso gli altri. È il tema che mi fa essere accogliente o non essere accogliente, saper ascoltare o non saper ascoltare. Tutto parte da lì, dal punto zero, secondo me. Quindi, secondo me è un terreno davvero tanto affascinante e mi piacerebbe scoprirlo insieme a voi, affrontando i tanti luoghi che l'educazione tocca. Quindi dalla famiglia, dalla scuola, dalla religione, dalla politica, cioè è un universo. Beh, per ora io mi fermo qui. Il programma mi piacerebbe chiamarlo Il popolo di Barabba, perché ho sempre la visione del popolo di Barabba che sceglie senza sapere di scegliere, inconsapevole di quello che fa. Ecco, mi piacerebbe un po' uscire dal popolo di Barabba e in questo percorso arrivare a capire che possiamo essere protagonisti della nostra vita e non subirla.